Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Diamo il via al sound check di Radio 24, la prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio, con il ritorno, e sono felicissimo di ritrovarlo in grande forma, Francesco Tromba. Buonasera e benvenuto. Buonasera, è sempre bello tornare a casa, anche se la strada per il Groove Master Studio non è come la Salerno-Reggio Calabria. No, meno male, no. Meglio. Molto meglio. Allora, Francesco, sono contento anch'io di vederti, ti vedo in forma, ti vedo sorridente, vuol dire che il lavoro che stai svolgendo negli studi importanti di Radio 24 lì con Giovanni Minoli sta andando bene. Sei soddisfatto? Sì, sì. Va bene, anche l'ambiente, diciamo, è molto bello perché tutti sono contenti, tutti sono felici, anche per i dati d'ascolto di qualche mese fa. Che è vero, più o meno un paio di mesi fa abbiamo ricevuto la bellissima notizia che Radio 24 ha confermato il successo delle ultime stagioni. Siamo contenti perché ho notato che anche nel weekend stiamo dicendo la nostra. Sì, anche se guardando meglio i dati si vede come, diciamo, tutti hanno vinto e nessuno ha perso. Sembrano un po' le dichiarazioni dei politici dopo le elezioni politiche. Parli anche degli altri network. Sì, no? Esatto. Sì, perché il reparto radiofonia in Italia ha funzionato abbastanza bene nel 2015, quindi c'è stato un incremento di ascolti un po' per tutti i grandi network. Qualcuno ha perso qualcosa, ma insomma più o meno tutti sono soddisfatti. Non ha perso nessuno. Non ha perso nessuno, anche noi siamo contenti perché riusciamo ancora in libertà a trattare gli argomenti legati alla musica, quelli che più ci interessano, e anche oggi faremo questo. Abbiamo alcune novità discografiche e anche un po' di informazioni, perché io vorrei approfittare della tua presenza, visto che sei uno curioso e anche un ottimo viaggiatore, per anticipare alcuni dei festival e delle manifestazioni più importanti in giro per il mondo, manifestazioni che noi appassionati di musica teniamo sempre sotto controllo, perché magari è bello andare in vacanza, ma è bello andare in vacanza in posti dove c'è anche ottima musica. Eh sì, poi bisogna sempre prepararsi, appunto prendere il volo per tempo per risparmiare anche, no? Perché così magari riesci a stare meglio lì, mangiare di più anche, no? Ecco, invece c'è un'altra cosa, che sta arrivando la bella stagione e quindi i musicisti sono pronti per partire in tournée. Il nostro paese sarà quindi invaso da musicisti provenienti da varie aree culturali, musicalmente parlando. Soprattutto il jazz va sempre forte d'estate, però il dato negativo è invece che anche noi italiani, musicisti italiani, resteremo nel nostro paese. Cioè sono pochi musicisti italiani che hanno la possibilità di poter proporre la loro musica all'estero, quindi non c'è proprio uno scambio alla pari. Eh sì, una volta che vanno all'estero, quei 4-5 che comunque hanno delle tournée importanti ci restano, quello vuoi dire. Allora, parleremo anche di questo col nostro Francesco Tromba. Io direi di passare subito alla musica e di presentare un personaggio che arriva da Chicago, la città di Obama. Non credo sia parente di Obama, ma si chiama B.J. The Chicago Kid, che dovrebbe avere un nome. Sì, si chiama Brian Sledge. Brian Sledge, assolutamente nero afroamericano, con la passione anche per l'hip hop, però ho sentito il disco, che è molto carino, si intitola In My Mind, e si diverte a proporre di tutto, quindi ha un background nutrito. Sì, tu parlavi prima di Obama, c'è un altro rapper in questo disco che si chiama Chance the Rapper. Chance the Rapper noi l'abbiamo presentato, sì, con Silvia Barba. È il padre di Chance the Rapper, ha un collegamento con Obama perché suo padre è un politico. Era un politico e ha lavorato insieme ad Obama quando ancora Obama era senatore, quindi comunque un risvolto politico c'è anche. No, ma è bello vedere che il presidente degli Stati Uniti, Obama, poi è presente anche nelle manifestazioni musicali. Ho visto un bellissimo bellissimo tributo a Herbie Hancock con Snoop Dogg sul palco che faceva Cantaloupe Island insieme a una band di meravigliosi musicisti, fra i quali anche Marcus Miller, e c'era Obama a fianco a Herbie Hancock. Sono belle cose, eh? Sì, è un grande appassionato di musica Obama, anche allora, se non sarà più il presidente degli Stati Uniti purtroppo, eh? A me dispiace. Ma anche, sinceramente, a me un po' mi ha deluso negli ultimi tempi, perché sei un po' disinteressato. Vabbè, adesso, andiamo adesso, avanti. Adesso vedi che lavori con Minoli, vedi come sei diventato. Sì. Va bene, andiamo con BJ The Chicago Kid, il brano si intitola Turn Me Up. Si chiama BJ The Chicago Kid con Turning Me Up qui al Soundcheck di Radio 24, album recentissimo dal titolo In My Mind, che vede poi la collaborazione anche di nuovi protagonisti della scena hip hop e R&B, e fra questi anche Ty Dolla Sign e il formidabile Anderson .Paak, che sta andando fortissimo anche col suo nuovo album intitolato Malibu, che noi abbiamo presentato con Silvia Barba qui dal Groove Master Studio. Francesco Tromba, nostro ospite, mi piace invece dire che sei tornato a trovarci, sei tornato all'ovile, e vedi come ti sei adagiato sulla tua poltrona da combattente della musica. Sì. Continuando a parlare però di BJ, The Chicago Kid, sì, lui è nato a Chicago, però poi si è spostato, ovviamente, essendo un rapper, sulla scena californiana, si è spostato a Los Angeles, e da lì ovviamente è partita la sua carriera. Ha iniziato anche lui in un coro di una chiesa a Chicago, come tantissimi altri rapper e tantissimi altri musicisti afroamericani. Da lì ha iniziato a collaborare anche con le Mary Mary, o anche con Keisha Cole, la Hathaway. Comunque ha fatto una serie di collaborazioni abbastanza variegate, non solo rap, anche tantissimo R&B. Per questo motivo riusciamo appunto a rintracciare anche queste sonorità dentro il suo nuovo disco. Esatto, e il background gospel viene fuori poi da questo brano, che è quello che ha lanciato questo nuovo album intitolato In My Mind. Il brano, un titolo che è tutto un programma, è Church con BJ The Chicago Kid al Soundcheck, Ty Dolla Sign e Anderson .Paak. Soundcheck, il suono della musica. La voce di Adi Suleiman dall'Inghilterra con Ain't the Beep qui al Soundcheck di Radio 24. Ricordo che è tornato a trovarci Francesco Tromba, e siamo pronti anche per lanciare i primi appuntamenti importanti per quanto riguarda i concerti e gli appuntamenti dal vivo. E il primo festival che potremmo consigliare a chi ha la possibilità di farsi una settimana di vacanza adesso, proprio imminente, parte credo intorno al 20 di aprile, ma bisogna spostarsi in Louisiana, nella meravigliosa New Orleans, perché sta per partire il Festival del Jazz e New Heritage, ovvero tutta l'eredità musicale di quella incredibile città, melting pot culturale, che viene riproposto all'ippodromo di New Orleans, ma anche in tutti i club della città. Lì nell'ippodromo vengono installati palchi, tende, quindi c'è la gospel tent, c'è il reggae, c'è il jazz, dal bebop alle cose contemporanee. Ma andiamo proprio nel dettaglio a New Orleans con Francesco Tromba. Sì, allora inizierà il 22 di aprile e terminerà il 1 di maggio questo festival a New Orleans. Citiamo un paio di noi perché sono veramente tantissimi, ci sono 3-4 pagine di nomi. Sì, perché poi il festival, vorrei dirlo, non è come da noi. Da noi i festival si svolgono essenzialmente la sera. Sì, o comunque magari nel fine settimana, ogni invece fine settimana. Lì la programmazione parte su tutti i palchi a partire dalle 11, mezzogiorno, anche perché il tempo è buono, ma anche se dovesse venire la pioggia sono organizzati, i palchi sono coperti, e quindi c'è musica, un'infinità di artisti da seguire, anche molti sconosciuti per noi. È un vero festival, si fa festa. Si fa festa, sì. Giustamente. Poi puoi mangiare anche tutte le prelibatezze tipiche, sì, della esatto. Louisiana, dall'alligatore a che ne so, il gumball. Gumball, red beans and rice, meraviglioso. Diciamo un paio di nomi, giusto per partire: Stevie Wonder, i Pearl Jam, i Red Hot Chili Peppers, quindi non solo jazz, sì. Lauryn Hill, ma ci sono anche Irving Mayfield, la New Orleans Jazz Orchestra. E c'è anche Didi Bridgewater? No, non l'ho letta ancora, magari quello, forse... Irving Mayfield è di New Orleans, insegna lì, vive ma lì. Sicuramente un salto ce lo farà magari. Hanno fatto questo disco meraviglioso insieme. C'è anche Christian Scott, che è stato ospite anche anche del, del soundcheck. Joe Lovano con la sua band, ci sono tantissimi musicisti, gli Steely Dan, gli Snarky Puppy, Gregory Porter, veramente andate anche a vedere il video della presentazione del lineup, che è molto bello, ogni anno è sempre diverso. E qual è l'indirizzo? L'indirizzo è neojazzfest.com. Eccolo qui, New Orleans, quindi a partire dal 22 di aprile. Allora torniamo alla musica, qui al soundcheck. Si intitola Settle for My Love, nuovo singolo per la voce infinita di Led Easy, che pubblica un EP utilizzando SoundCloud. E ci sono dei problemi con SoundCloud? Sì, purtroppo ho letto recentemente che ha dei problemi abbastanza gravi dal punto di vista finanziario, perché è cresciuta di tantissimo la spesa per mantenere appunto la macchina, nel senso che sono cresciute le spese per appunto gli uffici di SoundCloud, eccetera, eccetera. E per questo motivo è aumentato il debito. Però dall'altro lato ho letto anche che la parte del finanziamento, cioè la parte della raccolta dei fondi, è stata comunque molto forte e ancora può sostenere il progetto. Tutto ovviamente dipenderà da come verrà monetizzato, cioè quale sarà l'idea del fondatore di SoundCloud per monetizzare e per andare avanti. È un momento difficile, è un momento in cui si deve decidere appunto che cosa vuole essere SoundCloud. Eccolo qui allora, Led Easy, Settle for My Love, un vecchio successo di Patrice Rushen, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Uno scambio di favori, praticamente all'inizio dell'appuntamento BJ The Chicago Kid ospitava per il suo album In My Mind Anderson .Paak, e qui invece Anderson .Paak per questo brano intitolato The Waters chiede la partecipazione di BJ The Chicago Kid. È molto bello questo scambio di favori, queste collaborazioni che stanno portando l'hip hop e l'R&B contemporaneo fra le nuove realtà a livelli molto alti. Sì, rispetto al passato ho notato che non si fanno più la guerra, perché in precedenza non c'erano le diverse crew e ognuno non poteva vedere l'altro. Invece c'è molta più collaborazione fra queste nuove generazioni, infatti tantissimi si ospitano a vicenda nei diversi progetti che hanno. Certo, ci sono due artisti di riferimento in questo momento, perché anche queste nuove produzioni si rifanno comunque al suono di Kendrick Lamar oppure D'Angelo o Robert Glasper. Quindi questi sono gli artisti sui quali le nuove generazioni hanno puntato l'occhio e stanno riproponendo in qualche modo la scia sonora. Sì, però devo dire che Anderson .Paak c'ha un talento importante, perché ascoltando questo disco, secondo me è uno dei migliori del 2016 finora, è veramente molto ben prodotto e dimostra la vera maturità di questo artista, perché rispetto ai precedenti lavori in cui magari appunto c'erano 4-5 pezzi interessanti dove si percepiva il talento di questo ragazzo, però poi nel resto del disco si perdeva un pochettino. Invece questo disco è veramente praticamente tutto bello, valido, prodotto bene, curato nei particolari, anche le collaborazioni sono importanti. Non so se Anderson .Paak arriverà in Italia la prossima estate, però sicuramente in Europa. Abbiamo visto nel calendario del North Sea Jazz Festival a Rotterdam in Olanda che Anderson .Paak sarà presentissimo, e io un pensierino ce lo sto facendo perché in 3 giorni, 4 giorni di festival sul serio al North Sea Jazz Festival vedi di tutto, vedi il meglio della scena internazionale di oggi e di ieri. Sì, sono 3 giorni, inizierà l'8 di luglio e finirà il 10. Ci saranno The Roots, Diana Krall, Snarky Puppy, Christian Scott, quello che rimane purtroppo degli Earth, Wind & Fire. Con la scomparsa di Maurice White. Sì, Kurt Elling insieme a Brentford Marsalis Quartet, The Free Nationals insieme a Anderson .Paak, come dicevamo. amo i Simply Red, Jill Scott, Gregory Porter, quindi io vi consiglio vivamente di prendere un biglietto subito per Rotterdam. Sì, poi i costi ho notato che non sono eccessivi. No, è €80 il biglietto al giorno. Al giorno, quindi però tu... fai conto che ci saranno 10 artisti al giorno. Ma quasi. Forse anche di più, sì, più, le cose, più le cose minori. Sì, più le cose minori. Allora, North Sea Jazz Festival sta per arrivare e noi un salto potremmo farlo. La prossima estate possiamo ricordare le date? Dall'8 al 10 di luglio. Benissimo, e allora noi andiamo in pubblicità per poi attivarci con le informazioni di Radio 24 e ci andiamo con le nostre preferite. Noi abbiamo lanciato questo pezzo forse più di un anno fa, mio caro Francesco. Sì, eravamo insieme. Eravamo insieme, si intitola Supernatural. Le King, che sono tornate, finalmente hanno pubblicato l'album. Dimmi. Devo fare un appunto però. Ecco, figurati, vedi che lavori con Minoli, vedi come ti sei trasformato. Questo disco mi ha deluso, devo Beh, dire la vabbè, verità, perché partendo da Supernatural mi aspettavo molto molto di più. Ma noi che cosa suoniamo? Supernatural. Supernatural King al soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Puntuali dopo l'informazione ci ritroviamo con Francesco Tromba qui al Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di Radio 24. E allora stiamo facendo un'ispezione per verificare i festival più interessanti per la prossima estate. Il primo parte proprio fra qualche giorno a New Orleans, esattamente il 22 di aprile, e poi uno dei festival più interessanti per noi, lo abbiamo detto, quello che si tiene a Rotterdam ogni anno da un bel po' di tempo, è il North Sea Jazz Festival. Interessante perché in tre giorni c'è un condensato di meraviglia e di grande musica, dalle nuove realtà ai veterani. E a proposito di veterani, ci sono due signori brasiliani che credo abbiano festeggiato anche un bel numero di anni, non solo perché ormai hanno una certa età, ma anche di amicizia, no? Sì, più di 50 anni. 50 anni di amicizia che lega le carriere e la vita di Caetano Veloso e Gilberto Gil, che l'estate scorsa sono stati presentati all'Umbria Jazz Festival facendo naturalmente un sold out clamoroso, da soli sul palco con le loro chitarre, per celebrare la loro amicizia e la loro passione per la musica. In due non si sa quante composizioni hanno scritto, ma un concerto pare meraviglioso, talmente bello che infatti è stato pubblicato anche un album doppio che ci propone proprio dal vivo Caetano Veloso e Gilberto Gil, che saranno a Roma all'Auditorium Parco della Musica il 6 di maggio, quindi vi consiglio di non perdervi questo concerto. Ancora non è aperta la cavea, però... No, e quindi se lo fanno nella Sala di Santa Cecilia tocca chiamare immediatamente e verificare anche la disponibilità dei posti, perché intanto c'è una comunità importante di brasiliani e gli appassionati di musica brasiliana e quindi di Caetano Veloso e Gilberto Gil, è un po' la nazionale della musica brasiliana. In due fanno, insomma, c'è un bel numero di sostenitori, quindi tocca chiamare subito per prenotare i posti. Caetano Veloso e Gilberto Gil, li ascoltiamo qui al soundcheck in questa versione live, recente praticamente, registrazione effettuata l'estate scorsa, in Toda Menina Baiana. Tutte le ragazze baiane, sì, perché i grandi artisti brasiliani, mio caro Francesco, magari vivono a Rio de Janeiro, però hanno senz'altro casa anche a Salvador de Bahia, che è una città piena di fermento musicale dove c'è il vero umore del Brasile. Caetano Veloso e Gilberto Gil al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, il ritorno quindi al soundcheck di Nika Kim con la bellissima Cold. E qui nel Groovemaster Studio ci stiamo trattenendo con Francesco Tromba a caccia di festival e concerti da seguire per la prossima estate. Ne abbiamo già visti un po', devo dire che è una band che perennemente in giro, ma ormai già da 4-5 anni, sono proprio gli Snarky Puppy. Sono stati bravissimi questi ragazzi, band universitaria, perché c'è ancora il piacere di fare musica nelle scuole negli Stati Uniti, soltanto che di solito le band organizzate nei licei o nelle università sono, che ne so, big band di swing per riproporre più o meno il repertorio classico. Invece Snarky Puppy misero su una band nuova, fresca, alternativa, che propone questa strana miscela, una sorta di fusion contemporanea. C'è del jazz, c'è world music, c'è tanto contemporary R&B, ma soprattutto il piacere di ritrovarsi insieme e di fare degli spettacoli molto divertenti e coinvolgenti. Coinvolgenti anche per gli artisti che poi partecipano, e infatti sono approdati al secondo capitolo, Family Dinner, volume secondo, con un sacco di ottimi artisti, e credo che questo progetto è proprio quello che porteranno in giro in tournée la prossima estate. E sono 4 mesi in giro per il mondo questi ragazzi. Ma credo proprio tutto l'anno in giro per il mondo, perché veramente non so come riescano a fare, non si fermano mai, sono sempre in tournée da una parte all'altra del mondo, cioè non so come facciano fisicamente. Sì, hanno iniziato con una sovvenzione proprio da parte della scuola per la quale lavorano Michael League e gli altri musicisti. Michael League è il bassista, leader e anche compositore, è manager della band, è band che si è fatta conoscere utilizzando benissimo internet. Praticamente quasi tutte le pubblicazioni discografiche erano supportate anche da una ripresa video, e quindi promuovevano i loro album direttamente su YouTube, proponendo tutta l'edizione della registrazione originale fatta in studio. Sì, e poi comunque fanno proprio il video quasi live. Cioè è un live, è sì. Un live praticamente. È un live della ripresa in studio, quindi dietro c'è un grande lavoro di prove, di suoni. E poi Family Dinner, questo secondo capitolo, è scioccante, è veramente forte. È stato registrato dal vivo con il pubblico presente sul palco, quindi una grande operazione anche da un punto di vista tecnico. Sì, poi riescono comunque sempre a rintracciare appunto delle voci che siano funzionali al loro progetto, anche magari delle voci che hanno già prodotto una canzone, cioè loro scelgono proprio la canzone magari di quell'artista, e però riescono la a rivisitano farla loro e a rendere questo artista come se fosse un membro degli Snarky Puppy. È impressionante. Lo hanno fatto con Becca Stevens e abbiamo presentato la partecipazione di Becca Stevens con Snarky Puppy la settimana scorsa. Invece oggi vi vorrei far ascoltare Snarky Puppy con un'altra realtà. Anche questi ragazzi sono conosciuti dai YouTuber, chi segue le vicende di YouTube, si chiamano Nowhere, e questa è una loro composizione intitolata I Remember. Sentite che tiro, sentite che funk con Snarky Puppy al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Beh, ero un ragazzino quando Minnie Riperton cantava questo suo successo intitolato Loving You. Questa invece è la versione recente contemporanea proposta dal pianista arrangiatore Jesse Fisher, con la voce di Sarah Elizabeth Charles, vocalist che quest'anno abbiamo conosciuto anche per la splendida collaborazione con il bravissimo trombettista Christian Scott e Stretch Music. Questo è il soundcheck di Radio 24, tanti concerti in arrivo. Allora, che cosa possiamo vedere in Italia? Ad esempio parliamo anche di Umbria Jazz, dove ci saranno grandissimi... Beh, è sempre a luglio, no? Sì, parte l'8 di luglio. Mm. Ci saranno grandissimi artisti come Diana Krall, Pat Metheny insieme a Ron Carter, torna Kamasi Washington, anche se devo dire il concerto che ho visto io non mi aveva proprio entusiasmato, Tuck and Patty, ci sarà anche Buddy Guy, ma anche Bedford Marsalis insieme a Kurt Elling. Quindi lo stesso progetto che sta al North Sea, poi esatto. Arriva anche a Umbria Jazz. Anche George Clinton insieme ai Funkadelic. L'ultima volta George Clinton gli ha lasciato un bel ricordino in camera da letto a Carlo Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz, che salutiamo. Poi che altro c'è? John Scofield, Brad Meldau e Mark Guiliana. E questo è da bel vedere. Concerto, sì, questo è da non concerto. Perdere. Dove lo fanno? All'Arena di Santa Giuliana, mi auguro. Non credo, non lo so. E quindi all'Arena, che è lo spazio più grande di Perugia per il Jazz Festival. Quali sono i concerti? Ci saranno due grandissimi concerti, quelli di Mika e quello di Massimo Ranieri. Mike e Massimo Ranieri, sì, all'Arena di Santa Giuliana, cioè, a Umbria Jazz. Tu me li stai annunciando come i concerti clou di Umbria Jazz. Sì. Vabbè, io posso pensare che un'idea per portare nuova linfa e nuovo pubblico a Perugia per Umbria Jazz, no? È un'idea strategica. Beh, sì, è un'idea per fare sbigliettamento, per fare soldi. Sì, ma però ormai il Jazz Festival avrei notato che arriva di tutto, no? Anche sì, però non mi sembra una il scelta. Il punk estremo, lo so, poco coerente con lo spirito del festival. Ma Mike e Massimo Ranieri sono presenti anche al North Sea Jazz Festival? No. No, lì non ci vanno, non sono stati coinvolti, solo a Umbria Jazz. Sì. Va bene, allora andiamo avanti con la musica. Hai sentito questo disco del bassista francese Adrien Ferraud? No, ancora no. Si intitola Born in the 80s, perché è giovanissimo, è nato negli anni 80, il signor Adrien Ferraud, e quindi con questo album recupera tutte le sonorità con le quali lui si è formato, soprattutto un certo tipo di fusion che gli dà la possibilità di mettere in mostra i muscoli sul suo basso elettrico. Bravissimo e talentuoso musicista, ma devo dire la mia, il mio preferito resta sempre Dario De Hidda. Beh, allora sentiamo com'è, dai. Allora, brano molto potente, allacciatevi le cinture di sicurezza, parte con un rap, poi si trasforma e diventa abbastanza estremo. Si intitola Satisfying da Born in the 80s, Adrien Ferraud al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. You cannot go where your children are destined to go, but you can set them free. Il progetto Fun Slow Ride con Led Children, brano con il quale vogliono sostenere l'operato e il lavoro dell'UNICEF per i diritti dell'infanzia. E qui la voce in evidenza, con un testo bellissimo scritto proprio dal protagonista Ben Sidran, e le voci educate di Joy Dragland, che è una delle coriste americane più richieste ormai da tanti anni, e il bravissimo vocalist italiano Ainè, ovvero Arnaldo Santoro, che qualche mese fa ha vissuto anche un'esperienza entusiasmante e indimenticabile per lui. Sì, ho visto che ha pubblicato appunto su Facebook un video in cui è sul palco insieme a Common qui a Roma. Veramente impressionante, incredibile. Sì, perché Common, lo ricordiamo, uno dei rapper più importanti della storia della black music degli ultimi anni, nato insieme a D'Angelo con Jay Dilla, poi ha lavorato con Roy Hargrove a Rage Factor, ha registrato dischi importanti, ultimamente ha vinto il Grammy Award, ma anche vincitore dell'Oscar per la composizione di Glory insieme a John Legend, il brano portante della colonna sonora di Selma. Common era a Roma per girare delle riprese cinematografiche, non so, forse sì, un film, facendo un film nuovo, sì, che si intitola John Wick 2. Ebbene, la sera è uscito con i suoi amici, è andato in questo club, è salito sul palco, ha cantato con Ainè, poi lo ha invitato in studio di registrazione al giovane Arnaldo Santoro. Chissà che non nasca una bella collaborazione. Speriamo, sicuramente c'è tantissimo da imparare. È vero. Allora, abbiamo poco tempo a disposizione, stiamo per concludere anche questo appuntamento del soundcheck, però un po' di tempo per annunciare qualche altro concerto. Sì, allora, questa settimana, la settimana entrante, il 14 aprile, Daimè a Rosena a Roma, al Monk. Il 15 aprile invece sarà a Milano, al Bico, rimanendo sempre in scuderia Brownswood Records di Giles Peterson. Ci sarà anche Jose James in Italia, che sarà il 22 di aprile a Bologna, al Bravo Caffè, il 23 a Milano, sempre al Bico. Il 15 di aprile invece ci sarà Marcus Miller a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, e poi tornerà in Italia un grandissimo artista, Robert Glasper, insieme ai suoi amico Experiment, che sarà il 21 di aprile a Roma, il 22 a Torino e il 23 a Trento. Non possiamo dimenticare che poi il 30 di aprile si festeggerà in tutto il mondo, anche quest'anno per l'UNESCO, l'International Jazz Day, quindi concerti in tutto il mondo. Magari ne parlerò domani con Luciano Vanni, direttore e editore della rivista Jazz It, per l'appuntamento della domenica del soundcheck Quello Più Jazz. Quindi a tutti voi buona serata, vi lascio con Lian La Havas, che mi sa che invece non arriverà in Italia. Da quello che mi risulta no, pare di no. Che peccato, dobbiamo invitarla noi, magari a cena. Sì, invitiamola assolutamente. Sì, ha fatto un disco bellissimo, adesso replica con questo EP dove propone in solo chitarra e voce i brani più importanti della pubblicazione, quindi speriamo di vederla dal vivo. Bellissima, bravissima. Chiude il soundcheck di oggi Lian La Havas con Green and Gold. Grazie a Francesco Tromba. Grazie a te, Gigi.